Letture di Radio 24. Un team della Fondazione Santa Lucia di Roma ha analizzato con la risonanza magnetica pazienti tra i 18 e i 65 anni, scoprendo la prova per cui scrivere, leggere e studiare sono pratiche che rallentano l'invecchiamento. Rallentare l'invecchiamento del cervello? Certo che si può, basta fargli fare ginnastica. È una bella soddisfazione quando la scienza conferma un fenomeno positivo a cui già davamo credito distinto, e non solo per aver visto Nicole Kidman lambiccarsi con i giochi elettronici negli spot pubblicitari. Ecco dunque che una ricerca italiana dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Fondazione Santa Lucia di Roma dimostra che lo studio, inteso come scrivere, leggere, applicarsi a qualsiasi interesse intellettuale che stimoli passione e curiosità, ha un'influenza decisiva sull'integrità del cervello, dal punto di vista sia strutturale che funzionale. Gli autori della ricerca pubblicata dalla rivista Human Brain Mapping hanno scoperto, mediante sofisticati esami di risonanza magnetica su un campione di 150 soggetti sani tra i 18 e i 65 anni, che un'istruzione scolastica più lunga e dunque una maggiore abitudine alla concentrazione mentale è in diretta correlazione con la compattezza strutturale di certe zone del cervello. In particolare dell'ippocampo, l'area che presiede alla funzione della memoria a lungo termine e che è tra le prime a deteriorarsi quando si instaura l'Alzheimer. Insomma, allo studio si fa il callo e lo studio serve come? Magari non a trovare un posto di lavoro in questi anni incerti per l'occupazione intellettuale, ma sicuramente a mantenersi lucidi e attivi. Ma c'è di più e di meglio. Se chi ha un livello di istruzione superiore possiede in qualche modo un patrimonio mentale più vasto, che viene eroso più lentamente della senescenza, ed è quello che gli esperti chiamano riserva neuronale, tutti sono in grado di implementare il proprio benessere mantenendosi elastici e in esercizio, non solo con lo stretching per le articolazioni, ma anche con quello per le sinapsi cerebrali. In maniera analoga, c'entra il lavoro che si è svolto prima della pensione, e più è stato stimolante, e meglio è. Ma non è mai troppo tardi per recuperare. Basta, dopo la fine della vita professionale, non abbandonarsi passivamente al declino, ma tenersi curiosi e attenti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fai palestra con il tuo cervello, di Egle Santolini, dalla stampa di martedì 8 febbraio. Letture di Radio 24. Chiusa la contesa nata nel 2007 sulle lingue da utilizzare nei bandi pubblicati dall'Unione Europea. La Corte di Giustizia della Corte Europea ha dato ragione all'Italia, che aveva presentato ricorso in seguito alla decisione, da parte dell'Unione, di pubblicare i bandi solo in tedesco, inglese e francese. Per una volta, ma è una volta importante, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione all'Italia, sentenziando che è discriminatorio pubblicare solo in tedesco, inglese e francese un bando di assunzione per giovani di tutti i 27 paesi UE che vogliono appunto lavorare nelle istituzioni europee. Tutto da rifare, perciò. La pubblicazione va annullata. Si compie così un ulteriore passo nell'ultra trentennale guerra delle lingue, che vede le lingue forti dell'Unione Europea privilegiate da una parte e tutte le altre nel ruolo di Cenerentola. In questo caso particolare, la contesa era nata nel marzo del 2007. Sul suo sito internet, l'ufficio di selezione del personale della comunità aveva pubblicato un IMI, invito a manifestare interesse per la formazione di un elenco di candidati all'assunzione. Nel giugno dello stesso anno, l'Italia aveva fatto ricorso sostenendo che la pubblicazione in tre lingue non rispettasse i principi di non discriminazione, di proporzionalità e multilinguismo. I giudici della Corte hanno sposato in pieno questa tesi. La pubblicazione trilingue è una discriminazione fondata sulla lingua tra potenziali candidati, contraria al diritto dell'Unione Europea. Questo perché le lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione sono ben più di tre: bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, irlandese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, finlandese e infine lo svedese. La sentenza è considerata importante, anche perché può influire su un'altra guerra linguistica in corso, quella dei brevetti. Se un italiano vuole avere oggi un brevetto valido nel suo paese e in Europa, deve fare domanda nelle famose tre lingue all'apposito ufficio di Monaco. A quel punto avrà un titolo valido in Italia, ma negli altri paesi sarà sempre necessaria una registrazione e una traduzione sul posto. Di qui costi alle stelle. La soluzione sarebbe il cosiddetto brevetto dell'Unione Europea, di cui si parla da 30 anni, spiega Michele Gazzola, ricercatore di politiche linguistiche all'Università di Ginevra e collaboratore dell'Accademia della Crusca, senza mai concretare granché. Eppure avrebbe costi minori e sarebbe valido in tutti i 27 stati. I costi attuali? Beh, da una simulazione risulta che in un sistema a una sola lingua, l'inglese, il soggetto italiano spende in tutto 7.200 euro per avere il brevetto e quello britannico 5.500. Invece, in uno scenario a 5 lingue, entrambi sborsano 6.860 euro. Tutto è ancora materia di negoziazione e di spazi aperti per il nostro governo, dice Gazzola, ve n'è ancora. Il governo può strappare un accordo più vantaggioso, ad esempio 5 lingue procedurali. C'è ancora speranza, insomma, per Dante, nell'Unione Europea. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Lingue discriminate nell'Unione Europea. La Corte dà ragione all'Italia. A firma di Luigi Offeddu e pubblicato dal Corriere della Sera di venerdì 4 febbraio. 100.000 euro. Questo il valore che dovrebbero avere, secondo gli esperti, le paroline bunga bunga se dovessero trasformarsi in un marchio. Da novembre, dopo l'esplosione del caso Ruby, tutti vogliono in licenza il marchio della misteriosa pratica delle notti di Arcore. In attesa che i guru della pubblicità pensino allo slogan più azzeccato, c'è il marchio Bunga Bunga. Due paroline magiche che, secondo gli esperti, in questo momento valgono non meno di 100.000 euro. Tradotto, affari d'oro per il proprietario del simbolo Bunga Bunga che, guarda caso, da novembre, con il deflagrare del caso di Ruby Rubacuori, è ricercato come una pepita d'oro. Tutti lo vogliono in licenza. C'è chi pensa a un nuovo tipo di calze, chi ha una linea di cosmetici, chi opta per la ristorazione, chi lo trova perfetto per una catena di discoteche, chi semplicemente vuole esserne proprietario per venderlo al migliore offerente. Perché se la pubblicità è l'anima del commercio, niente in questo momento tira più del bunga bunga. L'ideologia, intendiamoci, c'entra poco o niente. In gioco ci sono solo questioni di puro marketing, niente di politico o antipolitico. Eppure anche stavolta, pur senza saperlo, Silvio Berlusconi e le sue presunte serate nella tavernetta di Arcore rischiano di far entrare nelle tasche del padrone del bunga bunga un bel po' di quattrini. Chi è costui? Per ora i potenziali titolari del marchio solo in Italia sono 8. Basta consultare l'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Italiano per avere una panoramica completa della questione. Chi arriva prima, in genere, ha più chance e gli altri si devono accontentare di quello che avanza. Ad esempio, la ditta Pompea S.P.A. di Medole, il 3 novembre scorso, ha depositato la richiesta di brevetto per un prodotto chiamato Bunga Bunga nel settore abbigliamento, calzature, cappellerie. Le classi, cioè gli argomenti per i quali è possibile registrare un marchio, sono 43, dalla profumeria agli apparecchi scientifici e nautici, dai metalli preziosi al tessile, dai corsi di formazione alle strutture per il divertimento. Ad esempio, il signor Giovanni Trabalzini di Roma, professione impiegato da oltre 50 anni, non fa mistero di avere dato mandato per la deposizione del marchio Bunga Bunga relativo a 5 classi diverse, in modo che, se una è già presa, ce la facciamo comunque con le altre. Trabalzini ha perfino dato disposizioni per il logo, con la dicitura Bunga Bunga in caratteri fantasia e andamento ondulatorio e una freccia sotto la scritta. Avevo pensato pure al marchio Escort quando è uscito lo scandalo della Daddario, ma poi ho desistito. L'ufficio brevetti del ministero, comunque, cerca di accontentare tutti. Solo i simboli contrari alla morale non vengono accolti o quelli offensivi al culto dei santi o alle confessioni religiose, spiegano dal dipartimento. Prima servivano 2 anni, adesso ci vogliono 4 o 5 mesi per assegnare il marchio e in caso di contenzioso o di mancata assegnazione ci può essere ricorso alla magistratura. La corsa al copyright del Bunga Bunga non è comunque solo un fatto italiano. Spulciando sui siti dell'Unione Europea si trova pure la richiesta dell'associazione inglese Field Fisher Waterhouse, mentre da Tirana, in Albania, a farsi avanti è tale Berardino Apicella. Poi c'è chi vuole aprire un Bunga Bunga Bar e chi a Napoli ha lanciato il simbolo del Bunga Bunga People per tessuti di cuoio, valigie, merletti, pizzi, lacci e ricami. Il Bunga Bunga ha aperto un mondo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Parte la gara per il marchio Bunga Bunga, pubblicato da Libero del 1 febbraio, a firma di Brunella Bololli.